Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. Ed eccoci qua, torniamo in voce, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il numero di telefono per entrare in contatto con noi, ma ormai lo sapete benissimo perché saranno almeno 20 ore e 22 minuti che ci state ascoltando, quindi un saluto a tutte voi. E quindi iniziamo questa 20ª ora in uno spazio dedicato alla violenza contro le donne. Ci accompagnano in questa chiacchierata le donne di Be Free, della cooperativa Be Free, e anche le donne del Centro Donna Lisa. Ciao a tutte, benvenute. Ciao, allora in uno spazio che si chiama Rompiamo il Silenzio e oggi vogliamo parlare di centri antiviolenza. La cooperativa Be Free ci illustrerà come sta andando il progetto aperto 2 anni fa al San Camillo di un centro di accoglienza antiviolenza al pronto soccorso, un esperimento qui in Italia abbastanza raro, quindi ci racconteranno di questo e poi le compagne del Centro Donna Lisa si inseriranno anche loro, sarà un po' una tavola rotonda e ci racconteranno anche loro di come trattano l'accoglienza delle donne che arrivano in centri antiviolenza, qual è la situazione anche economica, quali sono i progetti regionali, insomma tutto ciò che ci riguarda. Allora inizierei con le compagne di Be Free, se magari ci vogliono raccontare com'è nato questo progetto, quando è nato e dirci un po' come sta andando. Marzo di lotta a tutte e tutti da Be Free, io sono Antonella, sono un'operatrice che lavora all'interno dello sportello donna che si trova, come dicevi tu, dentro l'ospedale San Camillo di Roma all'interno del pronto soccorso. Per raccontare questa nostra esperienza che dura appunto da 2 anni, lo sportello è aperto dal 2009 e vorrei iniziare con la lettura di un brano che come dire introduce anche il libro che abbiamo pubblicato noi operatrici dello sportello con l'aiuto anche di altre persone che hanno messo mano a questo libro e che racchiude proprio l'esperienza di questi 2 anni di attività, racchiude anche le nostre storie, le nostre esperienze e anche i racconti delle donne che abbiamo conosciuto. No, non sono scivolata nella doccia, non è per un fatto incidentale che ho questi lividi e questi ematomi sul corpo. Sì, lo so, sembro confusa, ma non lo sono fino al punto di perdere l'equilibrio sulle mattonelle del bagno, grigio ferro, le mattonelle della mia doccia, e stanno così bene con le altre a losanghe, richiamano la lampada Liberty di Ghisa sullo specchio, dettagli della casa scelti assieme a questo uomo che adesso è qui accanto a me, nella sala d'aspetto, e mi tiene un braccio sulla spalla, in un modo che da fuori può sembrare tenero. Mi sento in una bolla nella quale mi trafiggono i suoi sguardi, lanciati di sottecchi contro di me. Taci, taci, è questo che mi intima in silenzio, non dire. Del tutto convincente per me, le sue dita conficcate dentro al mio omero, una minaccia e un monito. E certo non parlerò, non ho parlato mai. E allora sì, perché non dire che non sono scivolata nella doccia? Così nulla incresperà la superficie idillica della mia vita, sotto la quale esplodono vulcani, scoppiano i tuoni, la violenza la vedo arrivare quatta quatta da lontano. È uno sguardo o quella smorfia del labbro che conosco troppo bene. Cerco di mettermi al riparo dietro la remissività che mi sono dovuta costruire intorno, baluardo fragile, e infatti non serve a difendermi, mai. Eppure dirò che sono scivolata nella doccia. Questa volta ho fatto molto male. Non più male, questa volta mi ha fatto molto male, ma non più male delle altre volte. Quello che di più mi ferisce è questo atteggiamento protettivo e solerte, qui nella sala d'aspetto del San Camillo. Lui resta fuori mentre mi portano dentro al triage. L'infermiera ha uno sguardo dolce, direi quasi solidale. Mi sdraiano sul lettino, arriva un medico, parlottano tra loro. Arriva una giovane donna, ha una targhetta sul risvolto del camice, sportello donna. Ho un gran mal di testa, la giovane donna mi parla ed è come trovare all'improvviso le parole che cercavo da sempre. Stanotte la teniamo qui in osservazione, dice il medico. La giovane donna mi sussurra. Non ti preoccupare, è un modo per darti modo di restare un po' tranquilla e di parlare con noi dello sportello, se ti va. Lui appare un po' stralunato dietro lo stipite della porta del triage. Si andrà a casa? Sì, ci andrà, ci sono i bambini da soli e poi è notte fonda ormai. Lo vedo allontanarsi e sento come se il mio cuore e il mio dolore si quietasse e la mia forza cominciasse a rinascere. Sento dentro una specie di formicolio, come quando un arto rimasto a lungo inattivo ricomincia a funzionare, e poco dopo mi trovo dentro allo sportello donna e respiro l'accoglienza di quel piccolo ufficio. Un tepore inaspettato mi scioglie e le difese, e sento la mia voce dire che no, non sono scivolata nella doccia. Sì, è veramente un racconto toccante, scusate, sono rimasta un attimo commossa, e probabilmente è proprio questa l'importanza del vostro centro, perché le donne che arrivano da voi, che arrivano al pronto soccorso, io immagino non riescono a dare inizialmente un nome alla violenza, magari molte volte arrivano e non riescono neanche a capire che cosa le sta succedendo. Voi in che modo le aiutate, in che modo le accompagnate? Beh, infatti è esattamente come dici te, chiaramente quando arrivano sono confuse, il più delle volte sotto shock, anche perché ti ricordo che noi stiamo dentro il pronto soccorso, per cui le vedi un po' di tutti i colori, nasi rotti, occhi gonfi, sangue, insomma, cosa anche un po' truculenta a volte. Quindi immagina la donna in che condizioni si trova il più delle volte. Quello che noi facciamo, che poi viene sia da anni di esperienza di tutte noi, perché tutte noi sette abbiamo molti anni di esperienza nel campo, ma poi diviene anche un po' naturale, fondamentalmente l'accoglienza. Quindi quello che cerchiamo di avere è un atteggiamento il più accogliente possibile, e intanto cerchiamo di farle sentire un po' a casa, che quella è un po' una cuccia calda in cui possono esprimersi, quella è la cosa più importante. Quindi anche se tu stessa vedi delle cose che lì per lì ti lascerebbero quantomeno scossa, devi avere un atteggiamento, insomma, che sia rilassante e accogliente il più possibile. Questa è la prima cosa. Dopodiché, una volta che la donna si è calmata e magari comincia piano piano a capire quello che succede, dove si trova, cominciamo a proporre delle cose, quindi offrirgli un supporto che può essere di vario genere. Quindi una volta che abbiamo inquadrato qual è la situazione della donna, che ovviamente ogni volta è diversa, cominciamo a capire se ha voglia di parlare anche di eventuali risvolti legali, quindi se vuole che l'aiutiamo a scrivere una querela, se invece ha bisogno solo di parlare per tirare fuori quello che ha dentro e magari mettere insieme un progetto di fuoriuscita dalla violenza. Quindi magari a quel punto facciamo una serie di incontri in cui elaboriamo quello che le succede. Oppure anche alle volte, in casi anche più estremi, immediatamente ci attiviamo per trovarle un'accoglienza altrove. Quindi magari la notte, come dice anche il racconto, noi abbiamo la possibilità di avere un posto in medicina d'emergenza nel pronto soccorso, e più delle volte si è risolto con la donna che dorme nella barella al triage, però va bene lo stesso. E anche per ottenere questo ti assicuro che è stata una bella lotta, perché all'inizio io mi ricordo la prima volta che ha avuto bisogno di questo posto per una donna che non poteva tornare a casa, perché se tornava a casa voleva dire fare una brutta fine. Il medico di turno mi ha guardato come fossi una marziana, dicendo: ma che è sta storia? Allora lì magari ti imponi, ti rifai un po' le unghie e dici: vabbè, questo è l'accordo che abbiamo, vedete di farlo funzionare. Quindi poi un minimo, un po' con questo modo, un po' tra il gentile, un po' tra, insomma, un po' assertivo, siamo riusciti a ottenere molto. Infatti poi anche di questo ne vogliamo parlare, un po' dei cambiamenti che ci sono stati, no? Però appunto, tornando alla donna, queste sono le cose che noi fondamentalmente offriamo loro, quindi un'informazione legale, supporto e soprattutto un luogo che non è giudicante, delle donne che si mettono davanti a loro e che le accolgono e non le giudicano, perché quella è proprio la cosa che fa scattare moltissime reazioni nelle donne, perché la prima volta, perché loro sono le prime che si giudicano e pensano: se io che ho sbagliato, perché ho messo il bicchiere qua invece che qua, quindi mi ha dato la sberla, ma tanto se lo metto di là è uguale. Quindi insomma, una volta che piano piano escono fuori dal loro guscio e prendono un po' più, torna un po' al loro senso di sé, che di fatto si perde dopo anni e anni di violenza, fanno tutto da sé. Noi stiamo là e semplicemente le abbracciamo, ma fanno tutto loro. Sì. E voi qua dite, leggo dal vostro dossier, che lo sportello donna è insomma un luogo di frontiera. Sì. Appunto, sì, infatti era proprio di quello che volevamo parlare. Un luogo di frontiera, perché appunto l'esempio, io penso che un po' tutti noi abbiamo provato questa cosa. Quando siamo sbarcate al pronto soccorso ci sentiamo veramente delle aliene, perché veramente era una cosa che, a parte che non c'è proprio in Italia una cosa del genere, quasi neanche in Europa, e è un posto di frontiera perché, come ti dicevo prima, ne vedi tutti i colori. Quindi non solo, ok, c'ho la mia esperienza nella violenza di genere, ho lavorato nei centri antiviolenza, eccetera eccetera eccetera, poi arrivi, sbarchi al pronto soccorso e devi fare i conti con i ritmi del pronto soccorso, con le barelle che corrono a destra a manca, coi morti sulle barelle, e quindi insomma per questo è un posto di frontiera. Però è il posto migliore per acchiappare le donne, perché chiaramente acchiappare, ovviamente, sì, nel senso, sì, certo, agganciare, sì. Perché comunque loro arrivano lì e tu sei il primo contatto, e soprattutto anche l'effetto sorpresa per loro, perché non se l'aspettano di trovare magari le nostre faccette sorridenti, ma calme. Voi, fisicamente, dove siete collocate? Siete in un posto dove siete visibili appena arrivate? Sì, appena siamo, si entra al pronto soccorso? Noi abbiamo due entrate. Un'entrata che è dall'entrata quella principale, dove c'è la sala aspetto per i parenti, e poi un'entrata interna che è proprio dentro il triage. per cui spesso ci arrivano dal triage, per cui gli stessi infermieri, gli operatori sanitari ce le mandano. E questa è anche un'altra cosa molto importante che alla fine dei due anni andrà sempre migliorando. All'inizio c'era questa diffidenza, no, ma chi sono queste, le femministe esaltate, e invece poi adesso siamo diventate, insomma, lo dico senza modestia, però penso che è quello che insomma c'è anche stato riportato, siamo delle risorse, perché noi, oltre al fatto di stare lì sempre tutti i giorni H24, almeno fino a gennaio era così, poi parleremo anche di questo, praticamente gli risolviamo anche un sacco di situazioni che loro stessi trovavano frustranti, perché magari anche essendo insomma quelli più sensibili ti dicono, ma noi se non, quando voi non ce l'avete non sappiamo come fare, perché magari ti arriva la donna che sai che è stata picchiata, ma la devi rimanda a casa perché che gli fai, che perché non c'ha gli strumenti. Invece noi appunto stiamo lì proprio dove serve. Ho capito, sì, mi sembra veramente un approccio interessante, perché magari anche tante donne che arrivano lì non pensano ovviamente magari né di fare denuncia né di rivolgersi a qualcuno, e già trovare un posto dove magari anche solo entri, chiedi e poi magari forse non torni o forse ritorni, immagino che sia una grande potenzialità. Volevo un po' mischiare le carte, volevo chiedere, inserire anche le compagne del Centro Donna Lisa e cercare di capire qual è la differenza di approccio con le donne che si presentano a un centro antiviolenza, che è già un posto che esiste da tanto tempo e che ha degli orari, dei luoghi, e qual è la differenza invece in un pronto soccorso. E diciamo le donne in un centro antiviolenza stanno in un'altra fase, nel senso che già in qualche modo, anche se non forse non al 100%, però in qualche modo riconoscono di essere vittime di un'ingiustizia, di una violenza. Per telefonare a un centro antiviolenza e voglio dire fare la strada, arrivare su eccetera, diciamo che un passaggio l'hai fatto. Cioè, è in un'altra fase della violenza. E noi infatti intercettiamo quelle donne, non che il lavoro sia più semplice, per carità, però le donne stanno in un'altra fase. C'è cioè, probabilità che rimangano lì, che comunque si... Diciamo che hanno deciso, hanno preso la decisione di telefonare, di prendere un appuntamento, di fare la strada e di venire là. Il che non significa appunto che sia la cosa risolutiva, però è un'altra fase. E invece da voi immagino che sia tutto un altro approccio, come stavamo dicendo. Sì, perché chiaramente l'attivazione non arriva dalla donna stessa. Quando la donna arriva al pronto soccorso non sa che dentro al pronto soccorso troverà uno sportello donna, le viene comunicato nel momento in cui fa la registrazione al triage, e lì infatti, come diceva Sara, la mia collega, la compagna, è molto importante il lavoro che noi abbiamo instaurato, il lavoro di collaborazione, la sinergia che abbiamo instaurato con gli infermieri e le infermiere che accolgono le donne, perché chiaramente quello è il primo step. Le donne arrivano al triage, non arrivano al pronto soccorso e bussano allo sportello donna, arrivano davanti all'infermiere e il primo contatto ce l'hanno con questa figura, l'infermiere o infermiera, ed è proprio lì che arriva, che avviene il primo, come dire, la prima conoscenza di questo sportello. L'infermiere si accorge che c'è una possibile situazione di violenza, che quindi è di fronte a una donna che ha subito una violenza, sia perché se ne accorge da alcuni caratteristiche che ha imparato a riconoscere, questo anche grazie a una sensibilizzazione che è stata fatta attraverso il nostro lavoro lì dentro, e sia perché la donna lo riferisce immediatamente di averla subita, e quindi viene chiesta alla signora, alla donna, alla ragazza se vuole parlare con le operatrici dello sportello. Quindi insomma l'attivazione avviene in una maniera molto diversa da quello che raccontava la compagna del centro Donna Lisa, e questo cambia un po' il processo di consapevolezza, che comunque ha delle poi fasi differenti, però questo non significa che poi comunque non si riesca a fare un buon lavoro e che non porti a dei risultati ottimi, perché devo dire che tutte le donne che noi abbiamo seguito veramente poi la maggior parte hanno deciso di continuare il percorso di uscita dalla violenza, anche continuando con dei colloqui di sostegno nei nostri sportelli antiviolenza, l'SOS Donna che abbiamo, l'altro sportello antiviolenza H24, e quindi comunque sono tutti progetti che sono andati a buon fine, nonostante ecco ci sia stato questo diverso approccio. Sì, no, mi sembra interessante perché è come una formazione continua e anche un allargamento di capacità di riconoscere la violenza, per cui arrivano gli infermieri, arrivano i medici, si sensibilizzano, insomma si crea una struttura per cui anche magari le donne sono più... No? Sono più propense a chiedere aiuto e forse anche loro nel momento in cui sentono nominare la violenza hanno più capacità, si sentono riconosciute e quindi hanno più forza. Sì, esattamente, quello che dici tu è importante perché non solo ci sono più opportunità per le donne di avere chiaramente dei servizi attraverso i quali possono uscire dalla violenza, quindi servizi importanti, numeri antiviolenza, sportelli, centri, l'andare ad un pronto soccorso e trovare anche lì la possibilità di parlare con delle persone specializzate, esperte in violenza, è un'opportunità in più che si ha, ma soprattutto è importante quello che dicevi tu, perché una donna che arriva ad un pronto soccorso, quindi in un ospedale pubblico, trovando un servizio antiviolenza, acquista la consapevolezza che la violenza che lei subisce è importante, ha valore, perché un servizio pubblico se ne prende carico e quindi riconosce quello che lei ha subito, ed è questo è un messaggio fondamentale, perché, come dire, non solo le donne si occupano di violenza, non solo le associazioni di donne si occupano di violenza, ma anche la società se ne fa carico, e la società attraverso le sue istituzioni, ma la società anche attraverso un ospedale pubblico, e quindi è un messaggio fondamentale che deve passare, e per una donna arrivare lì all'ospedale, trovare delle operatrici che l'accolgano in questo senso e che riconoscono la sua violenza e le dicono: tu sei qui, sei venuta a curarti, ma hai la possibilità anche di poter affrontare questa cosa che tu hai subito, che è un reato, che è grave, per lei è una forma di riconoscimento di quello che ha vissuto, importantissima. Senti, io ho visto anche voi che avete anche messo dei grafici e qualche dato sulla tipologia degli aggressori, su chi sono, che lavoro fanno, la nazionalità, e credo che anche questo le compagne del centro Donna Lisa ci potranno dare anche loro dei ragguagli, perché immagino che comunque più o meno la tipologia di uomini è sempre, sì, ci guardiamo per dire, è sempre lei. E se ci volete dire, insomma, per esempio, una cosa che ci interessa molto, soprattutto dopo il pacchetto sicurezza, quando è stata fatta tutta quella operazione razzista sugli stranieri, gli extracomunitari che violentavano le donne italiane, ma io so che, sappiamo tutte che in realtà... Esatto, appunto, almeno allo sportello il più del 50% degli uomini violenti sono italiani. Per cui se tu pensi che il 50% sono italiani e il restante per cento sono stranieri, però di altre nazionalità, quindi immagina che sproporzione che c'è, per cui questo è un primo dato importante, non so se anche per voi è lo stesso. Noi non abbiamo statistiche, quindi no, anche noi oggi non abbiamo portato, i casi, però chiaramente anche per noi è la stessa cosa, cioè nel senso che gli autori della violenza sono italiani e soprattutto sono sempre, come dire, conviventi, fidanzati, mariti. Tra l'altro oggi è uscito proprio, diciamo così, la Casa delle Donne di Bologna ogni anno fa uno studio per quanto riguarda il femminicidio, quante donne vengono uccise in Italia, e proprio oggi è uscito il dossier per il 2011, e adesso qui sì che ci sono delle statistiche, e praticamente sulle morti di donne ammazzate nel 2011 il 95% della provenienza dell'autore è italiano, cioè proviene dall'Italia. Le relazioni, diciamo così, sono marito per il 37%, convivente 8% e ex fidanzato 11%. Per cui queste sono poi le statistiche che smentiscono tutte le politiche securitarie di cui da anni ci stanno portando, e che comunque ancora ad oggi i titoli dei giornali mettono sempre in evidenza quello che è la provenienza, diciamo così, dell'autore della vittima, guarda caso, con viene sempre sottolineato, è extra italiano, diciamo così. Sì. E poi Noi abbiamo fatto, tra l'altro, così per lo utilizziamo nei corsi di formazione, ma anche così per nostra formazione, un'analisi sui giornali, sugli articoli di giornale riguardo ai casi di stupro. Abbiamo scoperto delle cose estremamente interessanti. Rispetto allo stupro è interessante notare la differenza di parole chiave, la differenza di immagini, la differenza di impostazione dei titoli, se l'autore è italiano o straniero. abbiamo fatto una cosa non approfonditissima, voglio dire, però esaminando gli ultimi due anni di articoli di giornale, abbiamo preso articoli di giornale Corriere della Sera, cioè senza diciamo soffermarci su, che so, sul Libero piuttosto che sul Secolo d'Italia. E è interessante perché appunto quando sono gli stupratori sono italiani, sono presunte vittime. Quando gli stupratori sono italiani, lei in qualche modo col suo atteggiamento ha fatto capire che era disponibile. Nessuno ha sentito niente. Lei era ubriaca. Cioè, nel senso, sono dei dati che ritornano in tutti i casi in cui gli stupratori sono italiani. Quando gli stupratori sono stranieri, non è più la presunta vittima ma è la vittima, tutti hanno sentito tutto, non c'è stato mai nessun atteggiamento che in qualche modo potesse... Ed è questa cosa ci fa capire come rispetto per esempio allo stupro, che poi è l'ideale per lo stupro da sconosciuti, è l'ideale per i mezzi di comunicazione per comunicare una cosa piuttosto che un'altra, no? Perché lo stupro da sconosciuti è proprio l'apoteosi della violenza sul corpo della donna, quello che si vede bene, quello che non è bene nemmeno nascondere, perché quello che succede dentro casa meno se ne sa e meglio è, perché la Sacra Famiglia è meglio non toccarla in nessun modo, ma per strada è proprio il modo migliore per parlare di alcune cose. Ecco, il corpo della donna è violato sicuramente soltanto quando sono stranieri. Se sono italiani, lei ci stava, come da 100 anni fa, in qualche modo l'ha provocati. Se volete aggiungere qualcos'altro. Sì, ma solo qualche altra nota rispetto, non tanto numeri, perché coi numeri insomma... Però insomma, rispetto a quello che abbiamo vissuto, anche rispetto poi a guardare poi questi famosi dati che abbiamo nel nostro dossier, oltre a questo simpatico dato della cittadinanza italiana, che sta grande, insomma, che è un gran numero, c'è anche un altro discorso interessante da fare, che comunque rispetto ai tipi di lavori oppure alle provenienze di ceto sociale e quant'altro, abbiamo visto che la violenza, questo l'abbiamo sempre visto e si è confermato in due anni di lavoro allo sportello, è assolutamente trasversale, quindi è trasversale alle provenienze di ceto, è trasversale ai lavori sia della donna che dell'uomo, a livello di istruzione, all'età. E poi appunto anche rispetto a quel discorso che si faceva prima sullo stupro fuori dallo sconosciuto, in realtà ovviamente la violenza, anche quella che abbiamo visto noi dalle donne seguite da noi, avviene nella famiglia, dal partner, il marito, e fidanzato e quant'altro, padre, fratello, e nella stragrande maggioranza. Quindi questo dato è abbastanza innegabile, noi l'abbiamo verificato di nuovo con le più di 700 donne che abbiamo visto allo sportello in due anni, però come solamente primo incontro. Immagina che poi in tutto avremmo fatto più di 2000 colloqui, perché molte donne l'abbiamo vista anche 3, 4, 5 volte, quindi forse due cose l'abbiamo capite, e quindi appunto la violenza è dentro casa. È dentro casa, sì. E poi invece paradossalmente la violenza fuori è quella che ci spaventa di più, perché è quella che ci insegnano, no, da piccine che subiremo, e quindi di stare tranquille dentro casa, che non ci succede niente. Esatto. Ma noi dentro casa non ci vogliamo stare, sono tanti anni ormai che lo diciamo. Io direi che chiudiamo un po' questa prima parte, ci ascoltiamo una canzone e poi ricominciamo. Che dite? Ok. Thank you. non l'otto, solo l'otto. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Di nuovo in diretta su Onda Rossa 87.9 all'interno dello spazio Rompiamo il Silenzio. Abbiamo presentato finora lo spazio di antiviolenza al San Camillo, ne abbiamo parlato veramente bene perché riteniamo che sia uno spazio utile, insomma. Grazie. L'avete spiegato veramente in tutti i modi, però c'è un però. Eh sì, c'è un però, e che è un però grosso così. E noi da febbraio, dunque, noi avevamo una convenzione di 2 anni con il San Camillo. Questa convenzione è scaduta, per cui noi dal 1 febbraio di quest'anno continuiamo ad andare al San Camillo e a fare tutto il nostro lavoro e quello che abbiamo fatto finora, però senza una lira, perché i soldi ci dicono che non ci sono, che il super Inge Loopman, dirigente mondiale del San Camillo, ci dice che nei piani di rientro dell'azienda ospedaliera non ci sono i soldi per questo servizio, nonostante che, insomma, è stato provato in mille modi che serve, funziona e va bene. E quindi noi siamo lì dal 1 febbraio, quindi siamo lì tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, però dalle 10 alle 5. Quindi non siamo più H24, anche perché noi siamo 7, ci siamo accollate, come dire, un giorno a settimana di volontariato fondamentalmente. Eh sì. Perché non vogliamo chiudere, perché ci crediamo in quello che facciamo e perché le donne che sapevano che stavamo là, ci piacerebbe che continuino a pensare che siamo ancora là, per cui noi siamo lì per ora. Per ora. Da febbraio siamo lì, adesso ci faremo marzo, vedremo, insomma, come andare avanti, però chiaramente stiamo cominciando a traballare. Immagino, ma non c'è modo che rinnovino, vi hanno proprio detto definitivamente di no? C'è un margine di speranza, si può fare una battaglia, si può, non lo so, li possiamo aiutare pure noi? Sì, bisogna trovare solamente qualche finanziatore. Cioè, speranze nel senso, si è mosso tanto dopo il convegno che abbiamo fatto, comunque è stato detto tanto. Personalmente, finché non vedo niente di scritto, non ho molte speranze. Noi, appunto, finché possiamo resistiamo, però chiaramente dovrebbero uscire dei bandi a quali noi sicuramente parteciperemo, però ecco, è tutto molto fumoso. Per ora l'unica cosa certa è la nostra volontà di resistere. Noi vi auguriamo di resistere, vi aiutiamo in tutti i modi e, insomma, sopravvivete assolutamente, perché mi sembra veramente un progetto bellissimo. Poi anche le donne, insomma, non si può creare un posto così e poi levarlo all'improvviso, è ancora più frustrante. Esatto. Perché si lascerebbero, immagino, anche tanti contatti, tanti approcci a metà. Sì, tante... ma certo, a parte le donne che stiamo ancora seguendo. E poi tutte le donne che noi stiamo seguendo e che ci conoscono ci guardano e ci dicono: vabbè, ma adesso, quindi, quando al pronto soccorso arriva una donna che è successo quello che è successo a me, voi non c'è state, e come fa? Perché magari lei ne è uscita, perché adesso c'è un'altra vita, perché adesso magari sorride, e quindi loro stesse rimangono basite quando vedono questo. Dopodiché, purtroppo, questo è molto, è moltissimo, ma non basta. Quindi comunque questa cosa ditela, diciamola, facciamola girare il più possibile, magari, chi lo sa, magari riusciamo a organizzare qualcosa tutte insieme, andare a chiedere sarebbe finanziamenti, fondi, ma è sicuramente una cosa troppo troppo importante questa, per lasciarla morire così. Sì, speriamo. A questo proposito, credo che sia importante capire, per esempio, rispetto alla sanità regionale, da dove devono venire i fondi. Allora, noi in Regione Lazio sappiamo tutti di chi è la presidente, e diciamo c'è un assessore che si occupa proprio della questione alle politiche sociali, no? E quindi è l'assessore che diciamo sovrintende appunto ai centri antiviolenza, così come sovrintende ai consultori. Questo assessore ha tra i suoi consiglieri fidati, la famigerata Olimpia Tarsia, Movimento per la Vita, diciamo così. E, ecco, quando parliamo di fondi dobbiamo sapere alcune cose. Noi per esempio c'è un piano regionale antiviolenza, no? Diciamo che magari potrebbe per esempio utilizzare dei fondi, ecco, per dei servizi che funzionano, per dire, potrebbe essere un'idea, no? Potremmo suggerirla noi. Potremmo suggerire questa cosa. Invece praticamente hanno fatto una bozza di piano antiviolenza che noi abbiamo appunto avuto, che ha diverse caratteristiche molto interessanti. Prima di tutto non sanno che cos'è un centro antiviolenza, cioè non c'è una definizione di centro antiviolenza, quindi i soldi potrebbero andare a, per esempio, a un bel progetto come quello del San Camillo, potrebbero andare al centro antiviolenza o potrebbero anche andare per esempio alle suore. Non essendo definito che cos'è un centro antiviolenza, potrebbero, diciamo, questi finanziamenti darli, diciamo, a chiunque. No, scusa, se alzo la mano e ti interrompo, ma è successo, noi 2 settimane fa abbiamo sentito le compagne dell'Aquila, del centro antiviolenza, anche loro stanno in crisi perché la regione ha dato i soldi alla diocesi e li ha tolti a loro. Hanno fatto un bando apposito e loro non hanno più i soldi, non sanno più come sopravvivere. No, ma infatti questa della situazione dello sportello del San Camillo, intanto, diciamo così, è un elemento comune a tutti i centri antiviolenza, ma a livello nazionale, nel senso che tutti i centri antiviolenza lavorano con convenzioni regionali, provinciali o comunali, e questo dato è un dato allarmante per tutti. Chiaramente siamo, come tutti sappiamo, in un periodo di crisi, c'è il debito, bisogna sanare il debito, e chiaramente vengono tagliati i fondi centralmente alle regioni, e le regioni tagliano quello che sono i servizi, il welfare e quindi anche i soldi ai centri antiviolenza. Quindi già questo è un elemento che comunque è comune a tutti ed è un dato molto allarmante. Dopodiché c'è proprio, come dire, la volontà istituzionale di non fare nulla, o quantomeno, visto che oramai, diciamo così, del problema della violenza sulle donne se ne parla su tutti i giornali, cioè nel senso è un elemento, non dico di coscienza, però è un elemento che fa ormai notizia sui giornali, e quindi in qualche modo tutte le regioni, le province, e in questo caso la nostra regione Lazio, in qualche modo voleva fare un vanto, no, per quanto riguarda il 25 novembre, di presentare il suo piano regionale. Un piano regionale che, come appunto diceva Diana, all'inizio ha chiamato tutti i centri e tutte le associazioni a poter discutere con loro in una maniera molto, sembrava quasi veramente democratica, è abbastanza illusoria. Noi ci siamo trovate tutte lì con la formazione di ben 3 tavoli tecnici in cui chiedevano a tutti i centri antiviolenza di portare la propria esperienza e di portare il proprio contributo. Dopodiché, dopo le prime 2 convocazioni, siamo arrivati alla terza, a quanto pare la terza convocazione, dopo un invito a un Family Day a Fiuggi in cui sono stati spesi ben soldi, no, da questo assessorato, e praticamente, siccome alcuni centri antiviolenza si sono rifiutati di andare al Family Day, facendo presente che per noi, visto che la violenza è la, diciamo così, il luogo dove si consuma la violenza è la famiglia, non capiamo perché dobbiamo venire a discutere con te in quel luogo e in quel, diciamo così, tavoli che non sapevamo neanche bene quali fossero i titoli. Da allora in poi ci hanno completamente escluso, non ci hanno più chiamato, e si sono ritrovati un tavolo che sta decidendo di un piano antiviolenza dove appunto c'è la diocesi di Frosinone, c'è l'associazione Papa Giovanni XXIII, insomma si è ritrovato, diciamo così, tutta una serie di associazioni, diciamo così, di stampo più o meno confessionale e religioso. Per questo poi è chiaro che, no, quello che si porterà avanti sarà anche i soldi dove andranno, tant'è che le prime bozze che sono uscite da questo, da, diciamo così, la bozza di questo piano regionale rispecchiava molto, no, chi ha contribuito e chi ha portato, chi c'era in quel tavolo, tant'è che appunto non si parla di centri antiviolenza, non viene definita quanto la violenza di genere, si parla di vittime, si parla di violenza in generale, ma non di violenza di genere, che è poi l'elemento in qualche nostro, no, fondamentale anche di approccio, di metodologia, di accoglienza, come pratica, no, di appunto come centri antiviolenza, sportelli stiamo operando. E soprattutto, per esempio, c'è stato un elemento dove loro, diciamo così, puntavano e scrivevano di aprire strutture residenziali per danni, cioè per donne con problematiche psicosociali oppure con disagio psicosociale. Eccolo qui, le donne che, a cui loro vogliono aprire, diciamo così, strutture residenziali, hanno problemi psicologici, sono, diciamo così, fuori da testa, sono matte e vanno curate. Insomma, questo è un po' l'approccio, no, che questa regione Lazio si appresta ad avere rispetto alla violenza sulle donne. Poi chiaramente il piano è stato una bozza, l'hanno voluto presentare per forza il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza, per cui la Regione Lazio non poteva esimersi. Dopodiché però non si è parlato assolutamente di fondi, perché anche qua il problema è vero che molti cominciano a parlare di violenza, però poi c'è bisogno anche di fondi, cioè c'è bisogno di stanziamento di soldi, e di questa cosa qui non se ne parla, mentre per esempio c'è un piano famiglia che riguarda sempre questo assessorato, che sono ben 60 milioni. Quindi è chiaro che c'è, come dire, un'indifferenza, ma non è solamente indifferenza, ma è proprio una politica delle istituzioni rispetto a, a queste. Vedo che anche le compagne del no, di voglio dire, si scaldano. La chiusura di alcuni, diciamo, sportelli, servizi, non è un caso, cioè, a mio avviso. No, certo. No, è anche preoccupante quanto il movimento della vita, i movimenti cattolici riescano a entrare all'interno dei consultori, e questo è molto preoccupante, anche il fatto che non riesce a reperire la pillola del giorno dopo in farmacia, degli obiettori di coscienza in farmacia, che insomma comunque sono illegali in teoria, a prescindere se non ci interessa la legalità o meno, però tu non ti puoi rifiutare di vendermi un farmaco, magari tante ragazzine non sono informate. No, vai in ospedale, non ti danno niente, vai in farmacia, insomma, dove ti devi rivolgere? Chiudiamo i consultori, chiudiamo i centri antiviolenza. Tutte queste donne dove vanno a finire, purtroppo? No, infatti noi come Centro Donna Lisa abbiamo fatto parte di quello che è stato, diciamo così, l'assemblea delle donne contro la legge Tarsia, che in qualche modo prevedeva esattamente questo, l'ingresso del movimento della vita nei consultori, la privatizzazione dei consultori, e prevedeva ancora di più un ostacolo all'accesso delle donne, diciamo sia alla legge 194 e quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi voglio dire, gli attacchi sono abbastanza concentrici, arrivano da tutti i fronti, però che hanno tutti alla base una stessa, diciamo sì, progetto politico, e quindi una stessa politica. Quindi insomma, mi accennavate prima che anche voi avete problemi con il posto, problemi con un affitto, problemi di fondi. Sì, noi non abbiamo fondi particolari, anzi nessuno, cioè non è che siamo a progetto. Noi il posto dove stiamo l'abbiamo occupato 14 anni fa. Poi siamo andate a una trattativa con la proprietaria, la proprietà del, diciamo, del locale, che è le case popolari, l'ATER. E siamo andate a una trattativa, ci hanno messo un affitto che noi riteniamo sinceramente eccessivo, e per cui ce lo autoriduciamo da diversi anni. Adesso ci hanno chiesto il conto e contemporaneamente siamo arrivati quasi alla scadenza del contratto. E quindi ci hanno già disdetto con esatto. Un anno di avviso. Ci hanno disdetto il contratto, appunto, che finisce nel 2013, non mi ricordo in che mese, comunque nel 2013. E ci hanno richiesto gli arretrati, diciamo, della parte di affitto non versato in questi anni. Quindi ci hanno richiesto una cosa come 21.000 euro, che non so adesso vediamo un attimo dove trovare. Non me li ritrovo adesso. Non me li diamo noi allo sportello. Esatto. Ce l'abbiamo noi. E quindi hanno chiesto appunto più o meno 21.000 euro, e per di più appunto abbiamo questa spada di Damocle della scadenza del contratto, e siamo in una posizione appunto di morose di fatto. Comunque anche un peccato, che no, non mi piace usare questa parola, insomma una cosa grave che un centro così si trovi in questa difficoltà, anche che voi sono tanti anni che siete aperte, che lavorate nel territorio, le donne vi conoscono, e magari pensavo anche per quelle che non vi conoscono, che si sintonizzano adesso e che vi sento per la prima volta, potremmo raccontare cosa fate al centro, fate anche tanti corsi, fate veramente tantissime cose, magari dai una piccolissima panoramica, lo sapete, dai. Ma non diamo per scontato. No, vabbè, noi sì, come diceva Diana, noi ormai siamo 14 anni che siamo in quel luogo, ce lo siamo conquistato, lo abbiamo occupato, e da lì abbiamo cominciato appunto a fare le nostre attività, che riguardano principalmente, ma non esclusivamente, tutta la questione, diciamo così, dell'accoglienza, della violenza. Rispetto a questo, non solo noi accogliamo le donne, abbiamo sviluppato una serie di progetti di sensibilizzazione, di prevenzione, lo facciamo ancora oggi nelle scuole, quindi con gli adolescenti. Lo abbiamo fatto per esempio rispetto ai medici di base. Anche noi in qualche modo abbiamo lavorato, no, alla sensibilizzazione, no, dei medici di base, perché appunto puntiamo molto su quello che è il riconoscimento della violenza. chiaramente, come dicevamo prima, da noi le donne vengono, cioè nel senso loro scelgono di venire da noi, telefono, ma tutte quelle donne che invece non sono pronte per fare questo passo, oppure non riconoscono, no, ancora la violenza, chiaramente c'è bisogno, come dire, di un contesto di sensibilizzazione, di formazione. Per cui noi abbiamo fatto prima un'indagine per capire quanto i medici di base potessero essere, diciamo così, dei soggetti privilegiati per intercettare delle situazioni. E poi, visto che comunque noi l'abbiamo fatto su tutta la ASL, RMA, le statistiche ci dicevano che in effetti potevano essere, però assolutamente questi medici non erano formati, per cui per questo dico che anche il loro lavoro è stato molto importante, perché quando una donna appunto arriva a un pronto soccorso e dice sono caduta, allora se non hai delle persone che possono accoglierti e sono sensibili al problema, è chiaro che quella rimane, cioè quel dato rimane, è caduta dalle scale, nella doccia, eccetera, per cui e non fai un passo avanti. Allora noi appunto abbiamo fatto un opuscolo, un librettino che abbiamo dato a tutti i medici della ASL, della ASL RMA, proprio di sensibilizzazione per tendere a riconoscere la violenza. Dopodiché è chiaro, ormai dopo 14 anni appunto non è solo la violenza, noi ci occupiamo anche della salute delle donne, abbiamo, come ho già detto, abbiamo fatto parte appunto di questa, diciamo così, assemblea delle donne. Ci siamo costituiti ormai da un anno, credo, anche come un'assemblea nel consultorio, come assemblea delle donne dei consultori del quarto municipio, e stiamo lavorando anche dal di dentro, perché pensiamo che poi è oggi, come dire, è anche... c'è bisogno che i consultori non solo vengano, come dire, finanziati e quindi sempre di più non assolvono a loro quella, la loro funzione, ma c'è bisogno proprio che le donne riprendano in mano in qualche modo queste strutture, c'è la possibilità per legge di esserci, di controllare quello che sono i servizi, e quindi abbiamo continuato, cioè ad oggi siamo anche dentro i consultori del quarto municipio. Dopodiché, oltre questo, poi facciamo una serie di attività, dalla ginnastica posturale, e una cosa importante, negli ultimi 2 anni facciamo anche formazione per gruppi di donne che vogliono aprire sportelli, centri, eccetera. Infatti negli ultimi 2 anni sono stati aperti anche altri 2 sportelli qui a Roma, uno a Garbatella, l'altro nel sesto municipio, di donne, no? Perché pensiamo che più centri, più sportelli, più centri di sensibilizzazione e ascolto c'è, più questo problema può uscire fuori e quindi possiamo rompere, no, questa cultura. Vai. Io a proposito dell'uscire fuori, una cosa secondo me che viene sempre che viene sottovalutata. C'è stata una gran campagna, no, anche appunto da parte dei media, il 1522, che è il numero nazionale antiviolenza a cui tutte le donne possono rivolgersi, possono chiamare il 1522, vengono diciamo indirizzate verso il centro antiviolenza più vicino a loro territorialmente, e campagne pubblicitarie, la televisione, gli spot, eccetera eccetera eccetera eccetera, per diciamo come dire, aiutare all'emersione del fenomeno. E poi c'è molto lavoro da parte appunto delle compagne che sono come Bifree, come noi, come gli altri centri antiviolenza, come associazioni di donne che lavorano sulla violenza e fanno militanza anche volantinando, diffondendo, facendo convegni, facendo iniziative, assemblee, e chi più ne ha più ne metta. Dopodiché un po' è emerso questo fenomeno. Beh, non si sa dove metterle queste donne. Una volta che queste donne devono, diciamo, hanno preso coscienza del fatto che, voglio dire, la prossima volta sarà letale, perché è così, cioè che stanno in pericolo di vita, che vogliono interrompere questa relazione violenta, ovviamente le donne giustamente hanno paura a denunciare, perché se vivi con un uomo violento lo sai che magari la prossima volta ti strozza o ti accoltella o ti massacra di calci rendendoti invalida. E a questo punto ci sarebbe la necessità di avere delle strutture protette dove potersi rivolgere, cioè avere, beh, non ci sono, in tutto il Lazio ci sono 60 posti letto in tutto il Lazio, significa che i centri antiviolenza che hanno accoglienza hanno file interminabili. Le donne lo saprete meglio di noi, voglio dire. Cioè, voglio dire, devono essere sistemate. Però di suore ce ne stanno tante, eh? Esatto, devono essere sistemate nelle strutture di suore, perché appunto centri quelle, le donne senza permessi di soggiorno non le prendono. A me personalmente è capitato di dover appunto sistemare una donna che il marito gli aveva diciamo spezzato a calci una gamba e che le suore non l'hanno presa perché purtroppo non poteva salire le scale. Cioè, voglio dire, siamo in questo tipo di situazione in cui appunto la mancanza di fanno solo chiacchiere, fanno chiacchiere. Sulla violenza contro le donne fanno solo chiacchiere, poi in realtà non ci vogliono spendere un euro, no, dire così? Sì. Preferiscono che stai a casa a farti massacrare di calci perché così però perlomeno il padre dei tuoi figli non va in galera? Non lo so, cioè diciamo, questa è l'impressione che ho io, e che di fatto da parte governativa ci siano solo chiacchiere e che non ci sia nessun interesse reale a prendere, come si dice, il toro per le corna. No, loro democraticamente devono nominare la violenza sulle donne, devono condannarla, però poi in realtà non fanno niente, perché immagino che il primo motivo per cui magari tante donne non riescono a scappare da case violente è soprattutto per un motivo economico, magari appena avuto dei figli, sta in maternità o hai perso il lavoro per occuparti, insomma qualsiasi situazione, sappiamo le donne guadagnano molto di meno, perdono più facilmente il lavoro, e certo tutto questo ti relega in una situazione di schiavismo poi. Sì, io mi inserisco un momento. Vi ho ascoltato in maniera proprio piacevole e volevo agganciarmi un po' a quello che diceva anche Diana rispetto ad un contesto in cui i diritti delle donne si stanno sfilacciando sempre di più. È un contesto che non è capace di farsi carico della violenza contro le donne. E faccio per esempio anche degli esempi, nel senso che in un momento in cui tagliano tutti i fondi, e questi fondi vengono ad essere tagliati anche per esempio per quanto riguarda i servizi sociali, noi abbiamo diciamo delle belle collaborazioni con alcuni dei servizi sociali dei municipi di Roma, con altri diciamo che ci accorgiamo del fatto che molto spesso non sono preparate le istituzioni a farsi carico in maniera importante della violenza contro le donne, fanno proprio fatica a riconoscerla e questo è un problema serio, perché naturalmente non è che possono fare tutto i centri antiviolenza, no? Nel senso che i centri antiviolenza sono da sostegno, però molto spesso per esempio non hanno la possibilità di elargire dei fondi per delle case famiglia in cui le donne possono andare, e questi fondi vengono elargiti di solito dai servizi sociali, però se i servizi sociali non hanno i soldi, allora è un problema grave. Quindi stiamo assistendo diciamo ad uno sfilacciamento dei diritti generali di cui le prime vittime sono proprio le donne, che invece di pensarci due volte adesso ci pensano 10 volte prima di uscire da una situazione di violenza, e anche diciamo perché appunto non possono vedere un futuro davanti a loro. E un'altra cosa che di cui volevo insomma un po' accennare rispetto alle donne vittime di tratta, perché insomma Bifri si occupa anche di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, e stiamo assistendo anche qua ad un taglio di fondi molto gravoso. C'è il numero verde antitratta, che aveva 13 postazioni regionali e un capofila nazionale che si trova a Venezia, adesso hanno pensato bene queste 13 postazioni regionali di farle del tutto fuori, il che significa che c'è un aggravio di chiamate, di interventi da parte di un numero verde nazionale, che per quanto insomma possano essere anche preparati gli operatori che lavorano lì, comunque non hanno la possibilità di conoscere i vari territori, no, di appartenenza. Quindi anche in questa situazione ci stanno le associazioni che si muovono a livello regionale, che stanno cercando di mantenere aperte delle postazioni telefoniche o di fare diciamo più di quanto possano essere in grado di fare a livello di strumenti. Quindi io vi dico un'altra cosa, che magari diciamo non è uno sportello che si occupa di genere, di violenza di genere, però al San Giovanni esiste l'ambulatorio del NIRAST, che è il network italiano richiedenti asilo sopravvissuti alla tortura, che è fatto da un'equipe di psicologi, psicologhe e psichiatri che si occupano delle vittime di tortura, di grave tortura, e quindi dei richiedenti asilo, donne e uomini, delle situazioni insomma che riguardano anche lo stress post-traumatico, i disturbi post-traumatici da stress. Li stanno chiudendo con questa, che secondo me appunto è anche un pretesto del fatto che non c'hanno i fondi, non c'hanno il finanziamento. A chi si rivolgeranno tutte queste persone che appunto hanno avuto una storia di tortura, sono state costrette a fuggire dai propri paesi d'origine, hanno tutta una serie di problematiche molto gravi alle spalle? Chi le aiuterà a ricostruirsi una vita diversa, no? Una vita più serena e più autonoma? Quindi assistiamo ad una grave situazione di abbandono totale. Cioè, e poi scusatemi e chiudo perché sono partita a raffica, scusatemi e chiudo, e ci troviamo, no, con l'ipocrisia di queste date del 25 novembre, dell'8 marzo, che si ricordano solamente in queste date dell'esistenza delle donne vittime di violenza. Quindi è una situazione in cui naturalmente nessuna di noi si arrende, anzi continueremo a sfidare noi stesse, però insomma rendiamoci conto anche delle difficoltà oggettive che ci sono, e per cui No, insomma, sì. fino a che punto? Anche perché noi, insomma, avendo tutte poi, no, fatto anche delle analisi di genere, per questo poi tutte voi vi siete approcciate a questo tipo di intervento, e questa è una violenza, anche questa è una violenza, anche l'abbandono è una violenza sistemica, perché le donne devono rimanere a casa, per cui non puoi andare via, non ti do un posto dove andare, ti tolgo il lavoro, ti tolgo l'asilo, non ti do la possibilità di un'autonomia, l'immigrato uguale, nel momento in cui viene qua è abbandonato a se stesso, con la speranza che forse non ne vengano altri, ma se le persone muoiono di fame devono cercare di sopravvivere, le persone si sposteranno sempre, le donne cercheranno sempre di andarsene dalla violenza, quindi insomma è un muro contro muro, insomma. Io direi di facciamo una piccola pausa, poi chiudiamo un po' tutte insieme questo spazio, va bene? Thank you. insieme, siamo in tre Bibecco a mangiare le patatine, siamo entrate nella 21esima ora di questa maratona. Voi siete testimoni del nostro deperimento. Ci stiamo mano. Però siamo contentissime che tutte siate qui, di aver riuscito veramente a dare spazio a tantissime donne, a tantissime compagne in lotta, e siamo veramente contente. Questo spazio si sta quasi per concludere, volevamo dare un po' di informazioni, anche riferimenti, insomma, sul Centro Donna, su Be Free. Vuoi cominciare tu? Allora, sì, spazio notizie utili. Innanzitutto mi riagganciavo a quello che dicevi prima. Per la pillola del giorno dopo, visto insomma la difficoltà a reperirla e quant'altro, c'è un sito che si chiama Vita di Donna, e su questo sito ci sta appunto la sezione dedicata alla pillola del giorno dopo, e ci sta un numero di cellulare che si può chiamare tutti i giorni quando sono chiusi i consultori, quindi nel pomeriggio, e poi il sabato e la domenica. Per cui basta andare su Google, digi Vita di Donna, trovi il sito e ti prendi questo numero che è utile ed attivo sempre. E poi i nostri numeri, Sportello Donna, Bifri San Camillo. Allora, il nostro numero è 06 58 70 32 16 in coro. E siamo lì tutti i giorni dalle 10 alle 17, purtroppo, ormai per ora. Speriamo di tornare a essere H24. E noi ve lo auguriamo, ovviamente. Grazie. Speriamo. Ah, scusate. Diamo un po' di numeri anche noi? Sì. Allora, Centro Donna Lisa si trova in via Rosina Anselmi 41. Il nostro telefono è 06 871 41661. Ci trovate anche noi sempre, abbiamo una segreteria telefonica 24 ore su 24, e se chiamate poi ci sarà un numero di cellulare per le urgenze. E a proposito della pillola del giorno dopo, vorrei dire che qui a Roma lanceremo fra qualche tempo una petizione per far sì che la pillola del giorno dopo, la Norlevo, diventi farmaco da banco. Quindi, come insomma, gruppo compagni e associazione, lanceremo questa petizione, e quindi riporteremo l'attenzione, diciamo, sulla città di Roma, esattamente, e anche credo in Francia. Sì. E visto che stiamo dando i numeri, ne do qualcuno pure io. Lo sportello più. SOS Donna H24, sempre gestito da Be Free, 06 71 07 70 15, che è attivo appunto tutti i giorni, tutte le notti, 365 giorni all'anno. Ok, allora direi che abbiamo detto tutto. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere state qua. Comunque, grazie, insomma, grazie. Ci risentiremo anche in altri martedì, e speriamo di vederci qua l'anno prossimo, sempre l'8 marzo. Così tanto dobbiamo aspettare? No, vabbè, vi invitiamo anche prima. Ogni martedì siamo qui. No, perché sarete tutti e due i servizi ancora aperti, quindi vedrete ad aggiornarci. Non vi preoccupate. Yeah. Ciao.